Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Continueremo, come era presumibile, il viaggio tra virgolette, l'inchiesta che stiamo sviluppando sull'impatto del coronavirus sul Made in Italy. Ci siamo occupati ieri del tema moda, perché era il primo appuntamento della settimana della moda milanese, e le mille disdette, nel senso che non possono arrivare di buyers cinesi. Abbiamo anche ricordato come la spesa pro capite media del turista cinese sia di 1215 euro, che è una spesa alta, paragonabile, lo dico ai turisti, diciamo, penso ai turisti statunitensi, e quindi il problema si ripercuoterà non solo sui buyers chiaramente nel settore moda, ma anche sul turismo d'affari, turismo invece non d'affari nelle città principali italiane. Si stanno già facendo i conti sia a Roma, dove gli albergatori denunciano forti cali nelle presenze e cancellazioni che non vanno purtroppo solo su questo periodo, ma anche sui periodi successivi. Oggi l'affronteremo da un altro punto di vista, quindi non il danno, in parte già certo perché già c'è, ma il danno potenziale sugli acquisti turistici fatti in Italia, o comunque sul turismo d'affari, quanto il danno per le imprese italiane che operano in Cina. Il settore che prenderemo in considerazione è quello della meccanica e della componentistica e per l'automotive soprattutto. Perché la zona di Wuhan, dove ahimè è esploso, è stato isolato, è nato il coronavirus, è chiamata... la Chicago, potremmo dire Detroit della Cina, perché attorno a Wuhan sono concentrati gli stabilimenti automobilistici dei grandissimi marchi internazionali, tra cui Renault, Honda, General Motors e Peugeot Citroën. La sola Renault nella città di Wuhan ha 2.000 persone e produceva 300.000 veicoli l'anno. Sostanzialmente questo perché in Cina su 21 milioni di vetture vendute ogni anno, 7 milioni sono di origine europea o sono prodotte in Cina da fabbriche comunque europee. Questo andrà a saldarsi su una difficoltà del settore, mi riferisco al settore auto in Cina, ma non solo, perché anche in Europa il settore è in leggera difficoltà. Però da due anni gli acquisti di auto da parte dei cinesi, che resta la Cina il primo mercato al mondo, sono in netto calo, meno 25%, invece il calo nei primi due mesi delle vendite di auto nel 2020 è un meno 15% nella produzione, anche perché dal 30 gennaio Toyota ha fermato la produzione fino al 9 febbraio, la coreana Hyundai anche ha sospeso la produzione in tutti gli stabilimenti in Corea, perché è paralizzata dalla mancanza di componentistica cinese. La coreana SsangYong Motor ha chiuso gli stabilimenti fino al 12 febbraio, così ha fatto la Kia, e ne parleremo con chi ha stabilimenti oltre che vendite in Cina e rappresenta però anche l'ANFIA, quindi l'associazione dei produttori di automobili in Italia. Sì, dovrebbe essere la Detroit, sono d'accordo, non la Chicago, però viene chiamata la Chicago della Cina, non chiedetemi perché. Gli hotel disdettati restano col cerino in mano? Beh, no, immagino che andranno a fare altre offerte. Il problema è che sui saloni internazionali, mi riferisco appunto a Moda, Mobile, ma anche Mido, Milano Unica, che è il tessile, e altre fiere, come molti di voi sanno, le prenotazioni in questi casi si fanno a lungo termine, cioè qualche mese prima. E così come tutto il turismo cinese, essendo un turismo appunto di distanze lunghe, tende ad avere le prenotazioni a mesi prima. Non è un volo, diciamo, intercontinentale che uno può decidere di modificare da un weekend all'altro, e quindi il rischio che, con l'incertezza che continua a essere molto forte su quando si potrà non solo sviluppare il cosiddetto vaccino, ma ritenere contingentato l'allarme, questo fa sì che tu vada a disdire prenotazioni anche dei mesi successivi. Quindi riceviamo segnalazioni da molti albergatori che già stanno ricevendo disdette per i mesi di aprile, e questo la deve dire lunga sull'effetto che sta creando. Detto questo, parleremo non solo del coronavirus, perché da un lato ci sposteremo negli Stati Uniti, dove ieri notte Trump ha tenuto il suo terzo discorso sullo Stato dell'Unione, nel giorno in cui ha avuto anche gioco facile a deridere i democratici col casino che hanno combinato alle primarie. Il sistema non ha funzionato, lui ha detto, diciamo, è quello che fanno anche quando vanno al governo loro. Però al di là di questo è un discorso importante, perché Trump è in piena campagna elettorale, e questo è ovviamente nel discorso lo Stato dell'Unione ha cercato di mettere in luce tutti i successi ottenuti, dicendo che il meglio deve ancora venire per quello che riguarda gli Stati Uniti, chiaramente non per gli altri paesi. Apertura invece, al di là di alcune notizie che riguardano sia positive, devo dire abbastanza positive, sul gruppo sull'ex Ilva e quindi ArcelorMittal, avremo anche le nuove regole di bilancio europeo. Il tema è molto delicato, perché la Commissione europea oggi ha dato il via libera a un dibattito tra governi, istituzioni e parti sociali sull'opportunità di rivedere le attuali regole di bilancio, anche perché guardando cosa è successo in questi ultimi anni, emerge un debito elevato di alcuni paesi, basso livello di investimenti in generale. È vero che la zona euro è riuscita a ridurre i deficit pubblici a livello aggregato del 6 all'1% del PIL, però alcuni paesi hanno il debito elevato e il patto di stabilità, ormai lo sostengono quasi tutti, non ha aiutato la crescita, tant'è che le regole di bilancio finora si sono rivelate poco utili a raggiungere gli obiettivi di crescita. Questo è importante, lo dico, perché al di là dei tempi che si sono dati, che si è dato il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni, si sta già ragionando sul fatto che ho cercato di capire se l'eventuale protrarsi dell'epidemia del coronavirus, con le conseguenze economiche che sta già avendo, ma ancora più pesanti potrebbero essere nel corso dei prossimi mesi, non possa portare a rivedere anche senza la revisione complessiva, rivedere in maniera straordinaria e provvisoria alcune clausole del patto di stabilità. Voglio dire, se i paesi iniziano ad avere problemi nell'export, e soprattutto la Germania, che è il paese più legato con la Cina, forse è il caso anche di immaginare come elemento quasi di emergenza una, non dico una sospensione del patto, però una maggior flessibilità del patto stesso, perché nessuno, anche perché il patto dovrebbe prevedere una sospensione, un ammorbidimento nel caso di shock esterni. Ora, se il coronavirus non è uno shock esterno, non so cosa lo possa diventare. Infine, i mercati finanziari oggi sono tutti ben intonati, devo dire, come ieri, e quindi anche l'Asia, Hong Kong ha chiuso con un più 0,30, Nikkei in Giappone più 1%, per quello che riguarda Milano è più 1,60%, Parigi più 0,90, Francoforte più 1,40, Londra più 0,60, Dow Jones più 1%, Milano è quindi tra le migliori, sicuramente tra quelle a maggiore capitalizzazione, grazie a Pirelli più 5,11%, dopo la pubblicazione delle tendenze del mercato sui pneumatici favorevoli al settore, ma Intesa San Paolo più 4% quasi dopo i dati diffusi ieri, con l'utile più alto, e poi è stato alzato il voto da parte di molte case di investimento al gruppo Intesa San Paolo. Ancora segnalo Saipem più 3,5, ST Microelectronics più 3,20, Prismian più 2,40, Mediobanca più 2,20, Comunicredit e Biper e Buzzi, Unicem di negativo non c'è pochissimo, Telecom Italia meno 0,60, Ferragamo meno 0,60%. Lo spread italiano è in calo anche oggi a 133 punti, e questo dovrebbe rappresentare, qualcuno mi chiede, ma quant'è il risparmio, diciamo, per lo Stato italiano? In questo momento è stimato intorno al 1 miliardo di euro nell'anno come minori interessi sul debito. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi come sempre la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Allora andiamo avanti con il resto delle notizie in breve. Partiamo come sempre da quelle di carattere internazionale. E non voglio parlare adesso di Trump. Citavo le borse, vale la pena ricordare anche un altro leggero recupero. Recupero non vuol dire essere tornati ai livelli di prima. Parlo di Shanghai e Shenzhen, che avevano perso l'8%, oggi un po' di recupero, più 1,25% a Shanghai e più 2,50% Shenzhen, nel giorno in cui la Cina ha ringraziato anche l'Italia in un elenco di 21 paesi per la comprensione sincera e amichevole dimostrata e il sostegno e l'aiuto della comunità internazionale. Comunque le notizie poi le darò di nuovo, insomma, anche Airbus ha chiuso l'impianto di assemblaggio in Cina dove venivano assemblati gli A320 a Tianjin, e poi ne produce 6 al mese in Cina. Adidas e Nike hanno chiuso tutti i loro negozi, la maggior parte dei loro negozi in Cina. Cathay Pacific ha chiesto ai suoi 27.000 dipendenti e la compagnia di Hong Kong, uno dei più grossi vettori in tutta l'Asia, ha chiesto ai suoi 27.000 dipendenti di prendere fino a 3 settimane di congedo non retribuito. Spero che tutti voi possiate partecipare dal personale di prima linea ai nostri leader senior in modo da condividere gli oneri delle attuali sfide. Non so se in Italia si possa sollecitare un congedo non retribuito, però insomma, evidentemente a Hong Kong si può, e a Tokyo sono molto preoccupati per i giochi. Chiaramente, insomma, Tokyo nel 2020, quest'anno, ha i giochi olimpici. E quindi su questo la preoccupazione è molto molto alta. Il capo del comitato organizzatore, Toshiro Muto, ne ha parlato adesso, che Toshiro Muto abbia parlato sembra una barzetta, però ne ha parlato nel corso di una riunione con i dirigenti del comitato paralimpico internazionale. Ancora andiamo invece alle notizie che riguardano l'Italia. Oltre allo spread sotto i 130 punti, quindi ai minimi da metà dello scorso ottobre, per quello che riguarda le notizie che riguardano l'Italia, oggi è interessante quello che registra e sottolinea il rapporto Censis sul welfare aziendale. Perché la tecnologia spaventa il mondo del lavoro. Sono 7 milioni gli italiani che hanno paura di perdere il posto a causa dell'innovazione, dai robot all'intelligenza artificiale. L'85% dei lavoratori esprime una qualche paura o preoccupazione per l'impatto che la rivoluzione tecnologica e digitale avrà sul suo lavoro, ma lo stesso rapporto fa notare che già oggi chi lavora nei settori tecnologici guadagna il doppio degli altri. Cioè, fatto centro lo stipendio medio italiano, il valore sale a 181 nel comparto tecnologico, mentre scende a 93 negli altri comparti. Andiamo avanti con le notizie. Già accennavo a ArcelorMittal, quindi l'Ilva di Taranto, l'ex Ilva di Taranto. Dopo l'incontro del Premier Conte con Mittal, la Cascini Mittal, il numero uno, il proprietario della Mittal, a Londra, a margine degli incontri che ha avuto con Boris Johnson e al forum sulla sostenibilità energetica, oggi l'amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli, la parte italiana, ha detto: c'è ottimismo sul negoziato e c'è la volontà assoluta di Mittal di rimanere. Lo ha riferito il coordinatore di fabbrica dell'RSU Fiom CGL, Francesco Brigati, dopo l'incontro con Lucia Morselli, che ha anche ipotizzato un possibile preaccordo già entro domani. E poi le varie fonti del Ministero dell'Economia, del Ministero dello Sviluppo Economico fanno notare che i legali, gli avvocati di ArcelorMittal, hanno fatto 3 passi indietro rispetto alle loro posizioni iniziali. Insomma, alla fine non è evidentemente devono aver valutato che lo scontro diretto con il governo italiano non sarebbe convenuto. Ancora, per quello che riguarda le polemiche sul Ponte Morandi, adesso io non devo commentare, perché tale le parole di Toscani sono talmente inappropriate, perché poi ho chiesto mezza scusa, è follia pensare che non mi interessi. I familiari delle vittime hanno detto Toscani è confuso, perfino i Benetton, nella figura di Alessandro Benetton, si sono dissociati fortemente dalle affermazioni fatte da Toscani. Addirittura l'amministratore legato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, ha detto incomprensibili le parole di Toscani, anche perché Autostrade per l'Italia sta trattando con il governo per vedere che soluzione si troverà. Il mercato ha scommesso in questi giorni una soluzione non così penalizzante per il gruppo, e quindi una revoca parziale o invece della revoca e risarcimenti. Vedremo che cosa succederà. Invece una notizia riguarda il crack di Mercatone 1. Allora, c'era un reato contestato, bancarotta fraudolenta per distrazione. A giudizio c'erano le 3 figlie del fondatore romano Cenni, scomparso nel 2017. La procura aveva chiesto condanne per tutti fino a 4 anni e 4 mesi, ma erano tutti assolti con la formula perché il fatto non sussiste, gli imputati a Bologna. Secondo quanto ricostruito all'epoca dagli investigatori della Guardia di Finanza, i 6 avrebbero attuato dal 2005 al 2013 diverse operazioni societarie per depauperare l'azienda, arrivando a sottrarre nel tempo 300 milioni di euro alla società. In particolare il PM Michele Martorelli aveva chiesto al gruppo di condannare a 4 anni e 4 mesi l'ex amministratore Giovanni Beccari, a 2 anni l'ex consigliere Ilario Ghiselli, 2 anni, 2 mesi e 20 giorni chiesti per Gianluca Valentini, figlio di Luigi, altro fondatore di Mercatone 1, mentre per le figlie di Romano Cenni, quindi Elisabetta, Micaela e Susanna, la richiesta è stata rispettivamente di 2 anni, 8 mesi, 4 anni e 4 mesi. Ora, sarebbe interessante vedere le motivazioni, non lo dico con polemica, però insomma le motivazioni le vorremmo vedere, le motivazioni saranno disponibili, depositate entro 90 giorni. Dunque, qualcuno mi dice, non le sembra che si stia esagerando un po' con questa pseudo pandemia? Guardi, per ora le stime sono di un calo del PIL 0,1-0,2% su base mondiale quest'anno, con una Cina che invece avrà un calo ben più significativo. Purtroppo quelli che noi commentiamo sono già fatti economici, non sono previsioni, atteggiamenti. Cioè le 1000 disdette dei 1000 buyer cinesi per la settimana della moda del 18 sono fatti, non sono la chiusura dei voli aerei e il blocco degli stabilimenti produttivi, sono fatti, per cui io spero che la situazione cambi il prima possibile. Faccio notare che insomma chi arriva a Fiumicino, lo dico anche per esperienza diretta, anche se arriva da un volo domestico, cioè da un Milano-Roma, da un Venezia-Roma, viene fermato, e questo dice già, tradice lunga sul livello di attenzione, viene fermato, gli viene presa la temperatura e poi può uscire. Ora, tutto questo, a me continuano a fare l'esempio della SARS, ma la SARS, io non ricordo un blocco del genere di attività economica nella SARS. Ho capito che la si vuole paragonare per la parte, diciamo, dei morti, ma la SARS, intanto la Cina pesava di meno, ma comunque non creò il blocco delle attività produttive, dei voli, dei cargo, perché poi le merci devono anche transitare. Se tu abbiamo visto cosa è successo per esempio in Sud Corea, ma non perché siano bloccati i cargo, è che se le fabbriche cinesi non producono, i cargo non trasportano niente. È chiaro il ragionamento. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia, dicevo, sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Restiamo appunto sul tema coronavirus, prendendolo però da questo punto di vista non come spese mancate del turismo cinese, che è un turismo molto ricco in Italia, ma come danno alle imprese italiane che hanno gli stabilimenti produttivi. Dunque, e devo ribadire quello che ho già detto ieri. Qui non stiamo parlando di imprese che delocalizzano in Cina per poi vendere in Italia. Qui stiamo parlando di imprese italiane che producono in Cina anche e soprattutto per il mercato cinese. La Brembo produce per il mercato cinese, cito alcuni colossi dell'automotive, e così come Peugeot, Citroën, Renault, Honda, General Motors producono in Cina per il mercato cinese. Chiaro che poi i fatturati servono anche alla casa madre. Lo dico perché ci ha raggiunto i nostri microfoni, lo ringrazio, l'ingegner Paolo Scudieri, che è presidente del gruppo Adler, ma è anche presidente dell'ANFIA, che sono appunto i produttori di auto. Buonasera, ingegnere. Buonasera a tutti. Noi l'abbiamo già avuto ospite, perché lei è un caso, diciamo, più che virtuoso, avendo sede a Ottaviano in provincia di Napoli, il gruppo, e ha 70 stabilimenti in 30 paesi, 12 centri di ricerca e sviluppo, 13.000 dipendenti e un fatturato di 1,5 miliardi di euro. Voi fate componentistica, per esempio la parte del comfort acustico, termico, arredamento interno per le automobili, marchi come Ferrari, Porsche, Audi, Rolls Royce, Augusta, Alenia, Boeing, Bombardier, quindi automobili e aerei, e quindi treni, aerospazio, automotive. Vorrei capire una cosa: intanto quanto producete e dove producete in Cina? Beh, in Cina abbiamo 11 stabilimenti. 11. Dislocati prevalentemente sulla costa, e che servono a brevissima distanza per ottimizzare i costi di trasferimento delle merci ai nostri clienti, che sono carmakers, oppure sono ovviamente aziende del ridotto. Quindi una presenza importante che, come lei giustamente ricordava, non serve soprattutto a trasportare merci prodotte in Cina verso altre nazioni del mondo, ma serve ad alimentare la fornitura della filiera locale. Quindi voi producete per il mercato cinese. Chiedo magari se regia riusciamo a sistemare un po' il collegamento. Nel frattempo mi sta scrivendo un ascoltatore che segue le importazioni dal Far East per un'impresa. Hanno già ritardi nell'arrivo delle navi causa mancanza di manodopera nei porti cinesi. Questo in effetti non ci avevo pensato nemmeno io, ma è ovvio che se poi la gente deve stare a casa non lavora neanche nei porti, e conseguentemente operazioni di carico rallentate, e chi non ha sufficienti scorte potrebbe andare in rottura di stock. Sì, questo se tu vivi con prodotti che importi dalla Cina. Nel caso invece di Scudieri, della Adler e Pelz, stavamo ragionando di 11 stabilimenti che producono sostanzialmente per i produttori d'auto in Cina, visto che voi fate gli interni delle automobili. La dico male, ma insomma, per farmi capire. Sostanzialmente è così, ci occupiamo del comfort, quindi della cura acustica interno e esterno vettura, quindi copriamo lo spettro del vibrazionale e di assorbimento acustico all'interno dell'esterno dei veicoli. Gli aspetti messi in evidenza sono molteplici, le complicazioni sono molto più di quanto possiamo immaginare, e per alcuni casi evidentemente sono particolarmente gravi. Alcuni comparti abbiamo nel tempo fatto in modo che prodotti importanti come l'elettronica venisse deputata a quelle aree in quanto produzione, per cui il problema non è solamente quello già conclamato della chiusura degli stabilimenti dei nostri clienti in Cina, ma alcuni comparti cominciano a soffrire ovviamente di produzione e quindi rotture di stock per chi è posizionato dovunque nel mondo. Allora, facciamo così, perché lei produce appunto anche la parte acustica delle auto, deve essere inserito in uno dei suoi pannelli, perché la sentiamo male, Scudieri. Allora, le do il tempo, così diamo anche tempo a regia di risistemare un po' il collegamento, o il metodo, la pubblicità, e poi torniamo su questo punto, perché non è solo la produzione Cina su Cina, e quindi in Cina sulla Cina, ma è tutta la filiera che poi si alimenta da questo, e che rischia di essere la rottura di stock. Vuol dire semplicemente che se non hai magazzino si blocca la produzione. Adesso anche qui la dico male, ma come sempre, per farmi capire, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp dopo il meteo. Focus Economia. 17:38 minuti. Allora, vediamo, abbiamo ripristinato il collegamento con Scudieri. Mi puoi ripetere, perché il tema viene meno toccato, non è solo il problema della componentistica che voi producevate per il mercato cinese, quindi Cina su Cina, per altri produttori a partire da quelli europei lì presenti in Cina, è il problema della filiera anche che si approvvigiona di produzione cinese. Sì, alcuni comparti, come accennavo prima, sono stati delegati nel tempo alla produzione prevalentemente cinese, per cui per esempio l'elettronica serve dalla Cina il mondo, per cui la rottura di stock, se questo purtroppo dannosissimo e momento particolarmente delicato dovesse durare ancora per un tempo neanche lunghissimo, evidentemente metterebbe in crisi l'intero comparto e interi comparti industriali. Ecco, adesso parliamo di automotive, ma evidentemente la Cina produce per brand anche importanti elettrodomestici piuttosto che altro, quindi i fattori sono si conclamano poi a cascata in una maniera molto più pesante e non decifrabile oggi in numeri, perché potrebbe essere evidentemente molto più pesante. Noi speriamo evidentemente che la scienza, così come l'Italia ha saputo spalanzare, ha saputo isolare il virus, la scienza possa trovare quanto più velocemente possibile la cura, questo per evidentemente per aspetti umani e poi per quello che trattiamo adesso, quindi aspetti economici e di evoluzione di un PIL che, se è vero come è vero, 0,2 di impatto sul PIL mondiale, molto di più verso la stessa Cina o l'Asia in genere, ma evidentemente fattori che oggi veramente decliniamo con difficoltà di immaginazione, in quanto fanno parte della nostra vita quotidiana e quindi non ci rendiamo conto quanto dipendiamo, quanto riusciamo a dipendere sì, e la soluzione non mi sembra quella che dice qualcuno: beh, allora torniamo a fare produzioni. Indietro non si torna, anche perché chi lo dice poi non capisce che dentro il suo telefono, dentro la sua televisione, dentro le componentistiche è mondiale. E poi dovremmo stare attenti noi a fare questo ragionamento, perché anche l'Italia esporta tantissimo e in parte vive di export, quindi attenzione a fare ragionamenti diciamo tafazzisti. Però le devo anche dire, se posso approfittare del momento ghiotto, che la mia azienda esporta in Cina prodotti altamente tecnologici che non trovano un'allocazione industriale in quanto pregni di significato tecnologico, quindi vengono prodotti in Italia, in particolare nel sud dell'Italia, vengono esportati in Cina. Quindi questo è un momento sicuramente di vanto tecnologico, di buoni rapporti con la Cina, di integrazione con i nostri clienti che abitano industrialmente in quelle aree, e in questo momento un'ulteriore penalizzazione a uno stop che è evidente e conclamato. Senta, ancora due domande rapidamente. La prima è: intanto che cosa succede ai suoi stabilimenti, agli 11 stabilimenti che avete in Cina? Abbiamo in primis emanato delle policy di sicurezza, quindi di attenzione e di cure. Abbiamo creato un pool di esperti per poter dare, a secondo delle attitudini dei manager e dei dipendenti, quelle che sono soprattutto in termini di pulizia delle superfici, pulizia personale, pulizia di stabilimento, quanto più, come dire, tutela possibile. E poi è evidente che se i nostri clienti hanno deciso di chiudere alcune aree in particolare, abbiamo seguito su quei stabilimenti specifici stessa strategia. Quindi gran parte delle attività in questo momento seguono le festività del Capodanno cinese, che è stato quasi concomitante all'evento. L'altra domanda invece riguarda, io non capisco perché qualcuno abbia da ridire su 11 stabilimenti in Cina, vabbè, ma questo non voglio polemizzare con gli ascoltatori. No, l'altra domanda riguarda se le cose dovessero, diciamo, persistere nella loro gravità, mettiamola così, non voglio né creare allarmismi né portare sfiga, però quanto è difficile per un gruppo come il vostro, appunto, che ha 70 stabilimenti in 30 paesi, 12 centri di ricerca e sviluppo e 13.000 dipendenti, modificare la presenza su scala mondiale? Cioè, dire, allora, noi sappiamo che per esempio in settori merceologici un po' diversi dal suo, mi riferisco all'agroalimentare, gli operatori riescono a dirottare magari l'export, tipicamente quando tu hai problemi doganali oppure un crollo della domanda interna perché il paese va in crisi, ti occupi più magari dell'Europa e meno del Sud-Est America, oppure ti sposti un po' di più sul Nord America, riorienti le strategie commerciali. Ecco, quando parliamo di impianti produttivi? Guardi, noi siamo locali, quindi noi ci targhiamo con la pertinenza del paese, pur essendo un'azienda che ha, come diceva, sedi in 30 stabilimenti, 30 aree del mondo. Quindi fattori strategici alternativi assolutamente no, ma ciò non riguarda la mia azienda, ciò riguarda il sistema industriale globale che si alimenta da quelle aree. Quindi diciamo che è un fattore molto più grande che la singola azienda, sono strategie, noi speriamo evidentemente che si possa risolvere quanto prima possibile, e sono parimenti sicuro che un paese come la Cina, che sa reagire velocemente, saprà mettere in atto quelle misure capaci di, non dico recuperare tutto il perso, ma comunque di mettere una grande attenzione alla una rapida risalita di quello che sarà il prodotto interno lordo. Grazie anche a Regine Paolo Scudieri, appunto presidente del Gruppo Adria e anche presidente di Anfia. Andiamo adesso sul traffico. Focus Economia. ...17:47 minuti, andiamo adesso sui mercati che, dico per fortuna, come già ieri, oggi hanno seguito altre logiche, vanno su, lo dico perché sono tutti positivi, Francoforte più 1,50, Parigi più 0,90, Londra più 0,60, Dow Jones più 1%, Milano più 1,60 è il miglior indice tra quelle maggiore capitalizzazione, euro su dollaro 1,10, aiuta anche lo spread sotto quota 130 punti, Pirelli più 5,60%, invece il titolo si muove sull'analisi del settore degli pneumatici, di cui chiedo conferma a Stefania Arcudi, Radio Colli, Sole 24 ore, buonasera. Buonasera a voi. Pirelli più 5,60, Intesa più 4,20. Sì, sono state le migliori di oggi, e in un clima, come ricordavi, di generale miglior ottimismo, insomma, sull'attenuarsi dei timori per il coronavirus. Pirelli, appunto, da un lato beneficia dell'allentamento delle tensioni, e quindi, come tutti gli industriali, sale nei giorni scorsi aveva particolarmente risentito. Vanno bene anche, appunto, le previsioni sul mercato degli pneumatici. La società ieri ha dato indicazioni sui trend, vede un miglioramento, seppur non ancora particolarmente marcato, nonostante, appunto, le vendite in Russia, che potranno essere più lente, insomma. E citavi anche Intesa San Paolo, è la seconda migliore di oggi, ha guadagnato il 4,1%, già ieri il titolo aveva fatto molto bene dopo la trimestrale, i risultati di bilancio 2019 e le prospettive per il 2020 hanno convinto il mercato. Oggi gli analisti sono stati per lo più positivi, in particolare quelli di Citigroup, hanno alzato la raccomandazione da neutral a buy, quindi con un'indicazione d'acquisto, hanno alzato l'obiettivo di prezzo da 2,55 euro a 2,80. Il titolo oggi si attesta attorno ai 2,4. Quindi insomma uno scenario positivo, insomma, che peraltro poi si ritrova anche in tutte le altre banche quest'oggi. Ora faccio notare che Milano ha raggiunto i livelli massimi da maggio del 2018, sopra anche quota 24.000 punti, 24.236. Lo spread, dicevo, ha aiutato, poi ci sono i casi specifici, tra questi vorrei includere anche Saipem, che guadagna il 4% oggi. Sì, in questo caso il motivo trainante è proprio il rialzo del petrolio. Sia il WTI sia il Brent guadagnano al momento il 3-6%, sono arrivati a guadagnare anche il 4% al barile. Da un lato appunto ci sono le azioni della Banca Centrale Cinese per sostenere, con iniezioni di liquidità per sostenere l'economia e quindi la domanda, e in secondo luogo appunto la possibilità che l'OPEC e gli altri paesi esportatori taglino ulteriormente la produzione proprio per sostenere i prezzi e alla luce di un possibile calo della domanda visto l'allarme coronavirus. Allora andiamo su altri titoli invece per quello che riguarda sempre che è cresciuto bene oggi Prismian, l'ex Pirelli Cavi più 2,90, Steam Electronics più 2,70, Mediobanca più 2,5 come Fiat Chrysler, il 2,20 lo guadagna Biper, Buzzi Unicem, il 2% Unicredit, l'1,90 è rialzo di CNH e di Eni. È negativa Juventus dello 0,60, Ferragamo dello 0,60, Atlantia di mezzo punto percentuale, Telecom Italia anch'essa in calo di mezzo punto percentuale. Vorrei far notare due cose, visto che parlavamo comunque di tensioni e preoccupazioni sull'effetto complessivo del coronavirus. Atlantia oggi qualche realizzo, però va ancora bene come livelli soprattutto. ST Microelectronics più 2,70% e devo dire che Fiat Chrysler più 2,50%, parlavamo adesso del componentistica auto, nonché il lusso inteso come Moncler da un lato e non Ferragamo in questo caso, ma Moncler, si sta tentando un recupero. Ora possono essere anche molte speculazioni, perché lo dico, la borsa si muove anche sulle speculazioni, oppure vi sono altri motivi? Appunto, in realtà sono i titoli che avevano sofferto maggiormente nelle sedute precedenti, appunto per la forte esposizione alla Cina. Su ST che tu citavi ha guadagnato il 2,7%, si è avvicinata peraltro ai massimi storici, a 27,7, oggi era 27,4 il titolo. Le azioni hanno sostanzialmente snobbato l'allarme lanciato da Foxconn, il principale partner in Asia di Apple, che appunto alla luce delle tensioni sul coronavirus ha rivisto al ribasso le previsioni sui ricavi 2020. In questo caso appunto non hanno inciso sull'andamento del comparto semiconduttori e tecnologici in generale, che è stato tra i migliori anche in Europa come in altre giornate precedenti, insomma era successo. Andiamo adesso sui migliori e peggiori della seduta. EMS più 14,70, Titanet più 10,70, Mer Tecnimon più 9%, Infineon Technologies più 8,90, Astaldi più 6,20%. Fronte opposto Tesla meno 13%, ma era salita moltissimo ieri nei giorni precedenti. Italia Independent meno 7, Calefi meno 4,80, Ascol Eva meno 4,60 e Copernico meno 4,14%. Grazie anche a Stefania Arcuri, Radio Corriere Sole 24 Ore. Oh, Adesso, dopo il GR24, presumibilmente, parleremo di due temi. Uno riguarda direttamente l'Italia, come anticipavo, il fatto che la Commissione europea abbia dato via libera, oggi è un dibattito tra governi, istituzioni e parti sociali per rivedere le attuali regole di bilancio, il cosiddetto patto di stabilità. Non ci sono indicazioni sul futuro, però c'è un'analisi dell'andamento degli ultimi anni, un'analisi che anche dopo le riforme introdotte dal 2011-2013 fa notare come il patto di stabilità non abbia, noi lo diciamo da tempo ma non voglio sembrare presuntuoso, che le regole di bilancio si sono rivelate poco utili a raggiungere gli obiettivi di crescita dell'Unione Europea e tra l'altro non hanno neanche ridotto in maniera così significativa il debito in alcuni paesi, tra cui l'Italia. La Commissione Europea ha notato come negli ultimi anni la zona euro sia riuscita a ridurre i deficit pubblici dal 6% all'1%, però sono state ridotte anche alcune debolezze nell'affrontare gli shock esterni. Però insomma si prende atto che il patto va rivisto, non ha aiutato la crescita. Lo dico, dico che è importante per l'Italia perché insomma, e ne parleremo dopo il GR24, il patto di stabilità non distingue in maniera netta quando un paese fa deficit perché ha fatto investimenti importanti nella sostenibilità ecologica, nelle infrastrutture, cioè in tutto ciò che rende più competitivo anche un paese, infrastrutture tecnologiche, quindi rete oppure infrastrutture materiali, e non distingue tra un investimento in infrastrutture e un costo invece, perché per esempio nel caso dell'Italia il costo per i beni intermedi, la spesa della pubblica amministrazione. Qualunque imprenditore sa e conosce molto bene la differenza tra un investimento e un costo. La stupidità del patto, a mio avviso, è proprio questa, nel dire tu hai fatto deficit, chi se ne frega se l'hai fatto perché non sei riuscito a ridurre la spesa pubblica, o peggio ancora hai delle misure che hanno aumentato la spesa pubblica, oppure se hai fatto deficit perché hai messo in cantiere un investimento infrastrutturale imponente. Ecco, io spero che si parta da qui nel ragionare su una riforma del patto di stabilità e lo chiederemo a Antonio Pollio Serimbeni a questo punto dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Un attimo di attenzione, una comunicazione dalla vostra salutare ossessione quotidiana. Sono Nicoletta Carbone, ho una proposta per voi. Iniziamo insieme la giornata con Obiettivo Salute Risveglio alle 6:15. Poi alle 12, sempre dopo il GR, vi racconto le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. E subito dopo vi aspetto in diretta Facebook ogni giorno con un esperto a disposizione per parlare della nostra salute e avere indicazioni e consigli. Ci state? Allora mettetemi in agenda dal lunedì al venerdì, tre appuntamenti quotidiani da non perdere. Perché? Perché la salute viene parlando. Il segnale orario vi è offerto da... È ora di riscoprire il fuoco. Progetto Fuoco, 19 e 22 febbraio, Verona Fiere. Attenzione! Con Uliveto vinci migliaia di buoni spesa da 50 euro. Uliveto è una fonte di calcio altamente assimilabile. Acquista Uliveto, troverai una cartolina con tante preziose informazioni. Cancella i quattro amici della salute delle ossa e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 50 euro. La spesa te la offre Uliveto. Tiscali augura a tutti una buona connessione. A chi twitta, a chi social, a chi fibra, a chi giga, a chi carica, a chi scarica, a chi cerca, a chi youtuba, a chi spotify, a chi ce la fa, a chi vive online, a chi si sente, on life. Con Tiscali hai la fibra fino a 1 giga a soli 26,95 € al mese, senza vincoli, con modem super wifi e attivazione veloce gratis. Offerta soggetta a limiti geografici e tecnologici. Vai su tiscali.it, chiama il 130 o visita i negozi Tiscali. Tiscali, on life. Bella idea, i bassi e fissi. Eh sì, da Conad ci teniamo. Ecco perché mettiamo ogni giorno a prezzi bassi e fissi quei prodotti che in casa non devono mai mancare, senza girarci troppo attorno. È un modo concreto per accontentare ogni famiglia. È proprio vero che una comunità è più grande di un supermercato. Conad, persone oltre le cose. Radio 24 si sintonizza con te. Partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio e dacci i tuoi voti. Raccontaci le cose che ami e quello che ti aspetti dalla radio che hai scelto e che ascolti. Aiutaci a diventare la tua radio ogni giorno di più. Vai su radio24.it e partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio. La tua opinione è fondamentale per migliorarci. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora adesso parliamo di prima di Europa e poi di Stati Uniti. C'è qualcuno che si è appassionato al tema dell'astrologia su questo gennaio? Andate a riascoltarvi quella puntata, cos'è, il 23 dicembre, quella classe 24 l'abbiamo fatta dicembre con Tamburi e l'astrologa. Sì, ho capito, ha detto che per la prima volta dal 1580 c'erano quattro pianeti in Capricorno, ma non è che adesso possiamo andare avanti su questo. Certo che gennaio tanto bene non è iniziato. Comunque, andiamo, dicevo, a Bruxelles, perché vorrei capire con Antonio Poglio Sanimbeni, che saluto, buonasera Antonio. Buonasera a voi. Quanto serio, lo dico senza voler essere rispettoso, quanto seria sia questa ipotesi di revisione del patto di stabilità che è stata comunicata oggi dalla Commissione Europea, un dibattito. Ascoltiamo in primis Gentiloni, come che ha parlato chiaramente come Paolo Gentiloni, come commissario agli affari economico-monetari, presentando l'avvio della revisione del patto di stabilità. Occorre tenere il debito sotto controllo, ma servono gli investimenti. La comunicazione di oggi lancia da parte della Commissione europea un processo di revisione delle regole attuative del patto di stabilità e di crescita. Certamente le regole attuative del patto di stabilità e crescita hanno avuto dei buoni risultati, ma hanno bisogno di essere migliorate, perché oggi c'è sicuramente una esigenza straordinaria che deriva da una parte dal basso livello di crescita e dall'altra parte dalla grandissima quantità di investimenti che è necessaria se vogliamo fare sul serio quei processi di trasformazione in senso ambientale, digitale, delle nostre società. Quindi nessuno vuole mettere in discussione le regole della stabilità dei nostri bilanci, perché sarebbe assolutamente controproducente, ma contemporaneamente c'è bisogno di un impulso alla crescita e agli investimenti. Certamente i paesi con maggior debito, e l'Italia è uno di questi, devono tenere sotto controllo il debito pubblico, non c'è nessun dubbio. Contemporaneamente non possiamo immaginare una situazione nella quale gli investimenti, la transizione ambientale, i cambi nella nostra società portati dal digitale, le sfide del lavoro, tutto questo possa essere precluso a paesi che hanno un debito molto elevato. Allora Antonio, dicevo che una delle critiche più forti fatte in questi anni dal patto di stabilità, che non ha funzionato, lo dico insomma, non ha funzionato perché i paesi che sono cresciuti, penso alla Germania, e che adesso si sono fermati, sono cresciuti grazie all'export, è stata il non saper distinguere tra investimenti e costi nella spesa di un paese, perché una cosa è un investimento, una cosa è un costo, e quindi di fatto mettendo tutto sotto il cappello del deficit, bloccare anche gli investimenti in molti casi, a partire, e non aver avuto neanche la forza di imporre alla Germania, ma non solo, di riequilibrare quello che era l'avanzo di bilancio, quindi come prevedevano gli accordi di Maastricht, non avere paesi, diciamo, che hanno troppo debito, ma neanche paesi che fanno troppa cassa senza fare investimenti, perché questo avrebbe creato uno squilibrio sul mercato unico europeo. Antonio. Sì, questa è una vecchia questione che probabilmente si aprirà, perché questo è un po' il senso politico dell'operazione della Commissione. Sono tutti d'accordo, sia la Commissione europea sia i governi, che qualcosa bisogna fare. Qualcosa che riguarda il potenziamento degli investimenti pubblici dedicati all'economia digitale e all'economia e alla transizione ecologica. E per questo, d'altra parte, la stessa Banca Centrale Europea chiede di non essere lasciata sola a combattere contro la bassa inflazione. e chiede da tempo che è un'azione sui bilanci pubblici. Ora il problema è che tipo di spazi si aprono, che tipo di flessibilità e quale intensità avrà la riforma delle regole di bilancio. Ora la Commissione europea di von der Leyen, guidata da von der Leyen, ha deciso di rinviare la palla a una consultazione, essenzialmente parteciperanno stati, banche centrali, istituzioni finanziarie, parti sociali e i cittadini interessati. Sulla base di una griglia di una decina di domande, non prende posizione la Commissione europea, non fa proposta, la proposta è rinviata alla fine dell'anno sulla base di questa consultazione. Ora, scegliere questo metodo significa non sapere un po' che pesci pigliare. D'altra parte è una soluzione pragmatica e realista, perché per non correre il rischio di essere impallinati su una proposta da parte dei governi è meglio vedere che aria tira su certe questioni. Questa, diciamo, è una questione metodologica. Nella sostanza si capisce non tanto quali sono le preferenze specifiche della Commissione, ma quali sono i terreni su cui si può agire, e sono essenzialmente 3-4. Il primo è, mi spiace la faccio un po' lunga ma è un po' complicato, Il primo è spazio per investimenti verdi, cioè sconta grosso modo, quelli che vedo io, nessuna decisione è stata presa, ma questo si profila, spazi per investimenti verdi, diciamo in aggiunta alla flessibilità già esistente. Grosso modo sarà questa, perché non è stato detto esplicitamente oggi, ma non si parla di golden rule secca, di esclusione secca di certi investimenti. D'altra parte von der Leyen già 3 mesi fa aveva indicato proprio sulle 24 ore di essere contraria a una golden rule secca, esclusione di investimenti senza nessun controllo. Seconda pista è avere un'attenzione non tanto allo zero virgola, ai decimali di punto percentuale rispetto al percorso di consolidamento del deficit, di riduzione del deficit, quanto ai casi gravi. Che cosa sono i casi gravi? Quelli dei paesi, per esempio, ad alto debito come l'Italia. Che vuol dire? Lì ci vuole un controllo più stretto, controllo che finora non c'è stato. Terza pista, semplificazione delle regole, strettamente collegata alla supervisione sul debito, che vuol dire le regole sono troppo complicate, si fondano su parametri come la differenza fra crescita potenziale e crescita effettiva, che sono non visibili immediatamente, che sono molto contestati e contestabili. Li ha contestati anche l'Italia, giustamente. Definire un limite alla spesa pubblica. Ora, queste sono un po' le tre ipotesi, certo. Le tre direttrici. Gli stati risponderanno e si comincerà una partita. Il problema è quale sarà la misura di questa flessibilità, che tipo, come saranno calcolati, se si sceglierà questo parametro, come sarà calcolato il parametro del tetto alla spesa. Cioè, il diavolo sta nei dettagli. Lì bisogna vedere che tipo di compromesso politico è possibile in questa Europa. Questo è il punto, sapendo che il fronte del nord è sempre sospettoso nei confronti del fronte del sud, Italia in primo luogo, temendo di dover pagare le conseguenze di politiche fiscali di bilancio non in linea, diciamo così. Allora, una domanda che da questo punto di vista può sembrare solo di cronaca, però molti stanno ragionando sull'impatto che avrà anche, ne parlavamo prima, coronavirus sull'economia europea, soprattutto sulla Germania, che è moltissimo legata all'economia cinese, è il primo paese per interscambio commerciale con la Cina e quant'altro. Ora, tu ritieni che questo argomento non entrerà nel dibattito, nel senso che il dibattito ha prospettive più lunghe e al massimo potrebbero esserci operazioni una tantum se dovesse perdurare, diciamo, la crisi scatenata dal coronavirus? Dunque, due cose. La prima è che in presenza di situazioni emergenziali che hanno impatto negativo sulla crescita, soprattutto quelle importate dall'esterno, la flessibilità è garantita, voglio dire, non costituirebbe un problema. Il 13, giovedì prossimo, la Commissione pubblicherà le nuove stime macroeconomiche. Oggi Gentiloni ha detto abbiamo delle ipotesi, però un conto è se la diffusione del virus prosegue a livello globale oppure no. è ancora troppo presto, potremo anche rivedere le previsioni che stiamo mettendo a punto per la settimana prossima, dico revisione non la prossima settimana ma successivamente, però è troppo presto in realtà. Quando c'è un impatto economico esterno non previsto, eccetera, il patto di stabilità già prevede la flessibilità. Non è quello il punto. Il vero punto è che l'Europa soffre di bassa crescita e di bassa inflazione, con tassi bassi, troppo bassi, troppo a lungo. Questo è il vero punto. E gli investimenti verdi sono l'unica leva che gli stati e il privato hanno per risollevare le sorti dell'economia continentale. Questo è il punto. È questo che muove, diciamo, tutta questa operazione. È chiaro, ma soprattutto chiaro che il processo andrà avanti a lungo e poi sentiremo quelle che saranno le posizioni dei singoli governi. Almeno, se vogliamo prendere la parte positiva, si è aperto un processo di ridiscussione sul patto di stabilità. Grazie anche a Antonio Poglio Serembeni, dove invece non si apre nessun processo di ridiscussione ma c'è solo una conferma di quanto fatto, è nel discorso che ha tenuto il presidente Donald Trump, si chiama discorso sullo Stato dell'Unione, lo ha tenuto nella notte italiana, chiaramente essendo un Trump in piena campagna elettorale, aiutato anche da un debutto delle primarie democratiche, che più fallimentare di così non poteva essere, anche perché non sono riusciti a partire per motivi, diciamo così, tecnici. Trump ha avuto gioco facile nel ricordare i suoi meriti, ma soprattutto ha detto il meglio deve ancora venire. Il meglio per lui, non per magari i paesi con cui ha aperto o ha minacciato di aprire una guerra dei dazi. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Dicevo, Trump al congresso ha fatto il discorso sugli Stati dell'Unione. C'è sta anche questa scena, insomma, abbastanza, che la trovate su qualunque sito, video, in cui Nancy Pelosi, visto che Trump non l'aveva salutata, aveva rifiutato di stringere la mano, la speaker della Camera democratica ha strappato la copia del discorso mentre stava parlando Trump. Devo dire, insomma, veramente volano gli stracci tra democratici e il presidente degli Stati Uniti, il motivo in questo caso si chiama impeachment. Ovviamente, comunque, dicevo, la promessa di Trump, che per alcuni potrà risultare una minaccia, il meglio deve ancora venire. America's enemies are on the run. America's fortunes are on the rise and America's future. I nemici dell'America sono in fuga. Le fortune dell'America crescono e il futuro dell'America è straordinariamente luminoso. Gli anni del decadimento economico sono finiti. I giorni in cui il nostro paese veniva usato, sfruttato e persino disprezzato da altre nazioni sono definitivamente alle nostre spalle. Sono finiti i tempi delle promesse non mantenute, della ripresa economica senza posti di lavoro, delle banalità e delle scuse costanti per l'esaurimento della ricchezza, del potere e del prestigio americani. In soli 3 anni abbiamo infranto la mentalità del declino americano e abbiamo respinto il ridimensionamento del destino americano. Stiamo andando avanti a un ritmo inimmaginabile poco tempo fa e non torneremo mai indietro. Sono entusiasta di riferirvi stasera che la nostra economia non è mai stata meglio. Il nostro esercito è completamente ricostruito, con il suo potere senza eguali nel mondo. I nostri confini sono sicuri, le nostre famiglie sono fiorenti, i nostri valori sono rinnovati, il nostro orgoglio viene ripristinato. E per tutte queste ragioni, dico alla gente del nostro grande paese e ai membri del Congresso, lo Stato della nostra Unione è più forte che mai. L'occupazione va a gonfie vele, i redditi aumentano, la povertà sta precipitando, il crimine sta cadendo, la fiducia sta aumentando e il nostro paese è fiorente e di nuovo rispettato. Questa nazione è la nostra tela e questo paese è il nostro capolavoro. Guardiamo al domani e vediamo frontiere illimitate che aspettano solo di essere esplorate. Il meglio deve ancora venire. Riccardo Barlam in collegamento con noi da New York, dove è corrispondente Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Dunque, Riccardo, è chiaro che avendo i democratici fatto sta figura con i voti sulle primarie arrivano con un giorno di ritardo, lui ha gioco facile anche nello sfotterli, e comunque mi sembra che i democratici siano ancora molto molto divisi nella ricerca di un candidato unico. A questo del resto servono le primarie. Trump ha ricordato che gli Stati Uniti non sono mai così forti e rispettati, abbiamo sconfitto il declino dell'America. In realtà i numeri l'America li faceva anche prima di Trump, lo dico perché insomma, li commentavamo, ricordato come il deficit commerciale per la prima volta negli ultimi 6 anni sia leggermente sceso. Resta molto alta la differenza tra quanto l'America esporta e importa, a vantaggio di quanto importa, per 616 miliardi di dollari nel 2019, però è leggermente sceso dell'1,7%. Riccardo. Sì, è così, i dati sono appena stati pubblicati dal Dipartimento del Commercio, ha pesato ovviamente tutta la guerra dei dazi con la Cina e le prossime che arriveranno, anche quelle che riguardano noi con l'Europa. Il discorso di Trump dell'Unione, lo Stato dell'Unione è un discorso che viene fatto ogni anno, pensate come quello che succede in Italia quando il Presidente della Repubblica a fine anno parla alle reti unificate, lo hanno sottolineato, lo hanno rinominato oggi qui negli Stati Uniti il discorso sullo stato della disunione, perché questa scenetta che si è vista, che si vede sui siti, di lui che tira indietro la mano quando la terza carica dello Stato lo vuole salutare, certo. Esatto, è un discorso bipartisan in cui lui parla a tutti i cittadini americani, quindi il presidente americano che parla a tutto il paese, e allora tu non dai la mano alla terza carica dello Stato, e lei si vede questo gesto plateale di rabbia, anche un po' di cattivo gusto, ma comunque che resterà negli annali, appena finisce di parlare il presidente, gli strappa dietro tutte le pagine di questo discorso, 17 pagine, 1 ora e 21 di discorso. Il discorso di Trump è stato un discorso dove lui, pensate che stasera alle 4 americane, quindi alle 8 in italiana, votano l'impeachment, quindi certo. È un po' surreale, il giorno prima in cui votano la mia messa in stato di accusa, io devo parlare a tutti gli americani. Questo impeachment, come sappiamo, non passerà perché non c'è la maggioranza dei democratici al Senato, però questo è il clima di un'America veramente divisa in due, e lui quindi ha fatto un discorso tutto sui suoi record, sui primati di economia che ci sono indubbiamente. Pensate che nell'ultimo mese Trump nei sondaggi degli americani, nonostante l'impeachment, il gradimento degli americani su quanto lui ha fatto in economia è salito di 10 punti, è al 56% l'approvazione del presidente riguardo all'economia. E quindi questa è la storia. Trump non piace a molti, è un personaggio divisivo, però quando si parla del lavoro, della borsa che va, della disoccupazione ai minimi, insomma c'è poco da chiacchierare, le cose funzionano. È vero che funzionavano anche nell'ultimo periodo con Obama, che è quello che è riuscito a far uscire gli Stati Uniti dalla crisi peggiore del secolo, del 2008, però questi 3 anni di Trump, soprattutto per il suo taglio delle tasse, e che ha pesato moltissimo, l'economia è andata bene, anche se quest'anno gli ultimi dati parlano di un rallentamento che sarà ancora più elevato nell'anno elettorale, ma è normale, diciamo, perché nell'anno elettorale un po' si ferma tutto. Lui ha snocciolato una serie di cifre ieri, alcune vere, alcune i giornali americani hanno già fatto un fact checking. Sì, esatto, ci sono alcuni pinocchi, diciamo, però le cose significative che sono vere è che lui ha creato 7 milioni di nuovi posti di lavoro e ha dato un dato anche di quelle che sono le nuove riaperture di fabbriche negli Stati Uniti, con la sua politica di far rientrare le aziende che hanno delocalizzato. E lui ha parlato di 60.000 stabilimenti che avevano chiuso sotto le due precedenti amministrazioni di Obama, e l'America adesso ne ha riaperte 12.000, in cui i dati sono ufficiali, quindi è difficile fare previsioni. ora come ora, ma mi sembra che se va avanti così, non dico che la vittoria di Trump sia scontata, però diciamo ci ha messo una grossa ipoteca. Comunque era importante anche, è vero che c'è qualche segnale di rallentamento, soprattutto su alcuni grandi gruppi, e ripeto, poi vedremo cosa succederà anche sul fronte internazionale, però fai bene a ricordare appunto quello che sono stati anche i successi di Trump sul profilo e sul fronte economico. Grazie a Riccardo Barlam, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata.